Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Zitti, per carità, che c'è il silenzio elettorale. Tutti zitti, non si possono nominare politici, non si può parlare del voto. Ma intanto sui social agli stessi politici, presidenti delle squadre di calcio, le star della rete, i comuni cittadini possono intervenire e continuano a farlo. Forse ci sarà qualcosa da ripensare in questo istituto che nasce nel 56 e che è stato aggiornato l'ultima volta nell'82. Comunque sia, lo rispettiamo ovviamente. Tra le notizie che vi possiamo dare c'è quella che l'affluenza alle urne era intorno al 40% alle 23 di ieri per il referendum, più alta, come prevedibile, laddove si vota per le regionali. Vi possiamo parlare dei contagi, che in Italia restano più o meno stabili e che invece stanno creando problemi in Gran Bretagna, dove potrebbe prospettarsi un nuovo lockdown, e in Francia. E vi possiamo parlare di sport, con il campionato che è ripartito, con gli stadi aperti a sorpresa per non più di 1000 persone, il che ha generato una polemica politica della quale dobbiamo tacere i protagonisti, ma sappiate che c'è. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Simone Spezia. Le 6:33 minuti e 6 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, lunedì 21 settembre. Si vota anche oggi, fino alle 15, e quindi appunto siamo in silenzio elettorale. E domani partiremo per bene con tutti i dettagli di questo appuntamento. Ci saranno speciali oggi su Radio 24, ovviamente, a partire dalla chiusura delle urne. Domani mattina inizieremo un po' prima, inizieremo alle 6:15 e ci sarà ampio spazio per commentare quello che emergerà oggi, sia dalle urne del referendum, sia da quelle delle regionali. Una partita anche politicamente delicata, non so se questo si potesse dire, ma si può dire che è una partita delicata? Penso di sì. Però vi aspetto, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. Ovviamente non potete nominare politici, non possiamo parlare di politica, però se volete dirmi come la pensate sul silenzio elettorale, visto che, come si diceva, un noto, lo saprete, è ormai un presidente di una squadra di calcio, non dirò il nome e non dirò per chi si è schierato, ieri lo ha rotto esprimendo la sua preferenza per un candidato alle regionali. La mettiamo così, leggera. Vediamo se va bene o non va bene. Che ne pensate del silenzio elettorale? Oh, vi dico, oggi in questa giornata, in questa puntata di silenzio elettorale, parleremo per esempio di calcio, no? Di calcio, più che altro, un po' di questi stadi aperti, non aperti, con 1000 persone, solo in alcuni casi, un po' a sorpresa. Anche su questo ci si divide. Che cosa pensate che si debba fare? Riaprirli con più gente o con meno? Vi ricordate, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già discusso. E poi alle 8:35 ci occuperemo di smart working. E qua mi interessa molto sentire le vostre esperienze, come è andato il periodo di lockdown, come l'avete vissuto, se l'avete vissuto, se pensate che in qualcosa sia stata carente la vostra azienda, se pensate come dipendenti che sia benefico, se siete degli imprenditori, se siete riusciti ad applicarlo, se siete dei direttori delle risorse umane. Sempre 349-238-6666. Che vita è stata, no? Chiusi in casa per 3 mesi, home working e non smart working in realtà, senza un rapporto con i colleghi, quali sono state le difficoltà, la connessione, come sono andate le cose. E poi dipendenti pubblici, accusati a tutti, siete stati a casa e non avete fatto niente. questa è stata l'accusa ai dipendenti pubblici. Siamo qua a parlare un po' di tutto questo. Cosa vorrei farvi sentire prima di tutto? Forse in tema di elezioni quello che possiamo dire è che c'è stato prevedibile con la questione Covid una sorta di emergenza scrutatori. Qualche voce dai TG di ieri, va. Quando sono arrivata mancava uno scrutatore, allora ho detto vabbè mamma entra tu perché non so chi prendere. La prospettiva di stare 48 ore chiusi in un'aula con il Covid è stata probabilmente quella la preoccupazione per far sì che gli scrutatori e i presidenti di seggio manchino. Non c'è nessun indennizzo, c'è solo il rimborso normale. Ho visto oggi, solo oggi, casualmente un mio amico mi ha mandato sul sito del comune che c'erano la ricerca di volontari. Trovo un po' assurdo che solo che non c'è stata un'ottima comunicazione, che mancavano volontari e presidenti, e quindi mi sono subito fiondato. Purtroppo c'è stata una grave carenza proprio di scrutatori per quanto riguarda il seggio, infatti siamo dovuti andarli materialmente a reclutarli quasi per strada, perché a me per esempio personalmente su 4 persone nessuna delle 4 si è presentata. Ve la immaginate la scena per strada, fermi la gente, scusi lei vuole fare lo scrutatore? Sono un po' a corto in tutta sincerità. Gli stadi, anche qua, qualche voce dai TG, sentiamola. È stata un'astinenza incredibile, per cui dai, speriamo che piano piano, un po' alla volta, qualcuno possa andare almeno a vedere i ragazzi e poterli sostenere. La disinfestazione delle mani praticamente in ogni dove. E all'interno distanziamento. Distanziamento, sì, e molto controllo anche sul fatto che magari qualcuno si potesse abbassare la mascherina. E quindi se si urlava o incitare la squadra si poteva fare solo con la mascherina, giusto? Solo con la mascherina, non potevi neanche fumare. Io che sono una fumatrice ho sofferto come una bestia. Cara Giulia Zonca, inviata della Stampa, come stai? Buongiorno, bentornata ai nostri microfoni. Eccoci. Buongiorno. Si va a corto di fiato facilmente tentando di tifare la propria squadra con la mascherina. Con la mascherina però, un'impresa impossibile. Però ieri tra un po' di polemiche, anche tra politici che noi non citeremo, che non possiamo nominare, si è ripartiti, no? tre stadi, se non vado errato, tra cui l'Allianz, quello della Juve, hanno riaperto a 1000 persone con inviti. Come la vedi? Diciamo che chiamarlo tifo viene complicato e chiamarlo pubblico forse anche. 1000 sono 1000 su inviti, diciamolo, non è che improvvisamente hanno pescato dei fortunati estratti tra gli abbonati. Le squadre giustamente si sono arrangiate come potevano su un numero così esiguo rispetto alla capienza di uno stadio. Dal punto di vista sanitario gli stadi sono dei posti enormi, 1000 persone in uno stadio sono veramente niente, sono molte meno di quelle che possono passare in una strada con dei bar, per essere pratici. Il problema poi lì sarebbe se ci fosse un numero maggiore che molti invocano e il calcio chiede, come arrivare allo stadio, come uscire dallo stadio, i mezzi pubblici, tutta quella parte intorno, perché altrimenti per stare dentro lo stadio oggettivamente potrebbero stare anche di più. Sì. Vanno molto cauti, un passo alla volta, come sappiamo questo passo è stato un po', come dire, strappato da un politico, quindi non lo nominiamo. Non lo nominiamo. Sì, giustamente Giulia, il tema è tutti concentrati nello stesso orario ad andare verso lo stadio, i mezzi pubblici, i trasporti. È il contorno il problema, è quello un po' il punto. Certo, mi faceva sorridere per dire una cosa così lieve in mezzo a tutto ciò, che fosse un po' un casting questo pubblico, perché secondo me 1000 si sono posti un problema di rappresentanza, quindi prendo delle donne, dei ragazzini, cioè sembravano un po' le regole per gli Oscar. Sì, cioè entra, sì, sì, sì, sì. Pescati un po' così. Se non vado errato, ieri è tornato qualcuno anche sugli spalti degli internazionali, no? Sì, sempre mille, un po' più facile probabilmente sul tennis, anche perché le dimensioni sono ridotte, no? degli spazi, sì. Al Foro Italico, più facile da quelle parti. Più facile anche tifare, perché è uno sport, diciamo, più tranquillo, non comprende cori o curve, ecco, quindi già mille persone faceva un'atmosfera, mentre mille dello stadio non tantissima. È una ripresa un po' strana complessivamente, Giulia, anche del campionato, no? Perché ripartiamo che ci sembra di aver appena finito, e in effetti abbiamo appena finito la stagione sostanzialmente appena finita, la stagione sostanzialmente appena finita e già ricominciamo, no? Sì, era l'unica via possibile, per cui in questo caso non c'era scelta e non ci sono partiti politici a esprimersi, quindi un grande successo, ma non c'era altra via. La prossima estate dovrebbero esserci gli europei mancati l'anno scorso, le nazionali hanno un sacco di impegni, si ritroveranno comunque a rigiocare ai ritmi folli a cui li abbiamo visti d'estate in una parte centrale del campionato. In inverno vedremo tutti strascichi, infortuni, insomma questi due campionati così mescolati in uno secondo me lasceranno effetti a lunghissimo, sì, termine. Presumibilmente soprattutto sulle squadre più piccole, quelle che hanno meno possibilità di turnover, suppongo, quelle un po' più deboli sotto questo aspetto. Senti, non voglio parlare della Roma perché mi piange il cuore, ma come hai visto la Juve di Pirlo ieri? Come ti è sembrata? Beh, è stato sicuramente coraggioso, nel senso che forse poteva fare scelte più ovvie, invece insomma ha deciso di metterci del suo e voleva moltissimo metterci del suo. Devo dire, gode di un giustificato riconoscimento per l'enorme carriera che ha avuto e lo straordinario giocatore che è stato, per cui in questo momento sta proprio in un periodo di grazia in cui forse era consapevole di poter azzardare anche un under 23 in squadra o cose di questo genere, ma insomma si è ben comportato e credo che fosse nervosissimo prima e molto soddisfatto dopo, anche solo di averla svangata, di essere passato oltre il primo giudizio. Avversario non difficilissimo tutto sommato. Lo sentiamo Pirlo, Peter Bescapè, vai. Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, peccato non aver chiuso la partita con qualche gol in più nel primo tempo, poi nel secondo tempo siamo calati un po' fisicamente, però siamo riusciti a rimanere in partita e essere lucidi nei momenti decisivi. E la voce era da Sky. Oh, tra l'altro, a proposito di tennis, Giulia, adesso poi torneremo a parlare i contagi tra un attimo, lo faremo con Nino Cartabellotto, il presidente di Gimbe. Qua noi abbiamo dei dati che ci arrivano dalla Francia che sono preoccupanti, perché si parla di oltre 10.000 contagi al giorno. Si è appena concluso il Tour de France, loro hanno deciso di andare avanti tranquillamente e adesso parte il Roland Garros, il torneo sulla terra più importante del mondo. Anche là qualche filo di preoccupazione mi pare che ci sia, posto gli internazionali non sono ancora finiti perché manca la finale, però un filo di preoccupazione sul Roland Garros mi sembra che ci possa essere. Ma sì, cresce ed è normale che sia così, anche perché sul Tour de France ci sono state moltissime polemiche. Giusto ieri la sindaca di Parigi ribadiva che la bicicletta è nella cultura del loro paese e che fermarla non avrebbe avuto senso. Diciamo che lì sulla gente non ne hanno contati mille, ecco, hanno lasciato abbastanza che fosse, in alcune tappe anche, non so, se ne è vista parecchia di folla agli arrivi, per cui... Sì, molte polemiche, la Francia ha fatto questa scelta in assoluto sulla propria vita e forse per questo ora si contano questi numeri. Gli internazionali hanno fatto altre scelte, il Foro Italico era molto ovattato. Come la giudichi, Giulia, come la vedi tu? C'è una soluzione migliore o la mediazione a seconda del singolo paese, di come la vive il singolo paese, la mossa giusta? Ma stavolta almeno sportivamente noi ci siamo comportati abbastanza bene, siamo andati molto per gradi aggiungendo fino a che la situazione lo consente. È anche giusto farlo, credo, è anche giusto provare ad allargare le maglie in una situazione di sicurezza, non si può stare fermi allo zero totale, sì, anche perché quello che vale per tutto il resto del paese vale anche per lo sport. A un certo punto muore, non è che perché sono ricchi e famosi stanno, sì, in piedi in eterno da soli. Sì. Poi una tristezza gli stadi vuoti, una tristezza. Il calcio è invedibile senza pubblico. Ah, sì, terribile. Sembrano sempre partite con penalità, no? Quelle a stadio vuoto. No, ma sembra un eterno trofeo di inizio stagione senza una partita di allenamento. Però questa cosa di sentire le grida degli allenatori in campo ogni tanto non è male. Traffico. Qualche voce sul tema dei contagi. Paolo D'Ancona dell'Istituto Superiore di Sanità, sentiamolo, va. Con i 1587 casi notificati oggi, il numero si conferma elevato, anche alla luce del minor numero di tamponi. Si tratta di una tendenza lenta e graduale in aumento. I 15 decessi registrati oggi sono un segnale della gravità di una parte dei casi clinici, anche in considerazione del fatto che l'età media sta salendo. E perché l'età media sta salendo? Questo forse è il fronte di preoccupazione. Sentiamo il professor Galli, va. Che le infezioni che vediamo ora sono il frutto di un'estate un po' troppo frizzante rispetto a quello che sarebbe stato opportuno avere, ed è un altro dato di fatto che l'aumento dell'età delle persone e anche l'aumento dei casi importanti, non voglio definirli gravi, ma certo più impegnativi, è in relazione a una possibile, per non dire probabile, infezione nelle mura domestiche di persone più anziane e quindi più fragili rispetto attuata da persone più giovani che si sono infettate durante l'estate. Nino Cartabellotta, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, presidente di GIMBE, il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze. GIMBE che sta producendo una serie di rapporti con i numeri sull'andamento dei contagi, ci aiuta ogni settimana a vedere le cose un po' più chiaramente, dico a tutti noi, si inserisce nel dibattito pubblico in questo modo. Cartabellotta, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Bentornato ai nostri microfoni. Dunque, c'è questo fronte di preoccupazione che abbiamo sottolineato con le parole prima arrivate dall'Istituto Superiore di Sanità e poi dal professor Galli. Il punto è che è ricominciata la vita familiare e il rischio che le persone un po' più avanti con l'età tornino ad infettarsi c'è, mi pare, no? Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza non solo sui numeri, ma su quelle che sono le dinamiche di questa fase dell'epidemia, che non può essere in alcun modo confrontata allo tsunami che abbiamo vissuto nei mesi di febbraio, marzo, aprile, né tantomeno a quelle scene drammatiche. Noi in Italia ci siamo trovati una eccellente stabilizzazione del numero dei contagi settimanali nel mese di luglio, quando nelle prime tre settimane viaggiavamo intorno a 1400 casi la settimana, quindi più o meno 200 casi al giorno. Per l'ultima di luglio abbiamo cominciato a vedere risalire la curva e nella nostra ultima settimana di monitoraggio, quella del 9 e 15 settembre, siamo arrivati a 9.837, quindi i 1.400 la settimana sono diventati più o meno 1.400 al giorno. E questo è avvenuto per due motivi: da un lato perché abbiamo fatto molti più tamponi, dall'altro perché il virus circola di più. Infatti il cosiddetto rapporto tra positivi e casi testati è aumentato da quello 0,8% di luglio fino al 2,7% dell'ultima settimana. Quindi l'incremento di questi casi non è dovuto solo a una maggiore capacità di testing delle regioni, ma a una maggiore circolazione del virus. Sì. Qual è poi il secondo step da interpretare? Man mano che la curva aumenta, si incrementa il numero dei casi attualmente positivi, quindi dei soggetti che possono potenzialmente contagiare, che erano all'incirca 12.000 a fine luglio, ieri sera erano 44.098, quindi noi abbiamo un bacino in continua espansione dei casi attualmente positivi, che ovviamente sono prevalentemente giovani, ma quando poi incontrano soggetti, come ha detto il professor Galli, ma anche l'amico ex collega di università Paolo D'Ancona, Nel momento in cui incontrano tra le mura domestiche i nonni, gli zii e gli altri, ovviamente questi vengono contagiati. Tutto questo, e chiudo diciamo questa prima interpretazione dei numeri, si va a riflettere su quelli che sono i dati ospedalieri delle terapie intensive, che tornando sempre a quella parte finale di luglio, noi avevamo 732 pazienti ricoverati in ospedale, ieri erano 2365, quindi abbiamo triplicato questo numero, le terapie intensive erano 40 e ieri erano 222. Numeri non preoccupanti, che non danno segni di sovraccarico ospedaliero, ma che fotografano una dinamica, diciamo, in fase crescente dell'epidemia. Forse prevedibile per settembre, anche con la riapertura delle scuole, no, carta bellotta? Ma questo purtroppo è un dato che non conosciamo, perché la letteratura ci dice, almeno nei paesi che hanno riaperto le scuole prima, che l'impatto sulla curva dei contagi della risalita, della risalita dei numeri non dovrebbe, uso il condizionale d'obbligo in questi casi, essere così drammatica. È evidente che 8 milioni di studenti che ritornano a scuola, che viaggiano sui mezzi e quant'altro, voglio dire, ci sarà sicuramente un incremento. Ma dovrebbe andare in calo quello, diciamo, un po' dell'estate pazzerella di cui ha parlato il professor Galli, dove probabilmente abbiamo perso un po' di quel vantaggio che avevamo accumulato nei confronti di altri paesi europei. Sì, detto che, adesso non dico siamo circondati, perché sarebbe eccessivo, però i segnali che ci arrivano in particolare dalla Francia mi paiono, carta bellotta, preoccupanti. Ma in realtà lo sono, però va sottolineato un aspetto non da poco, perché sappiamo quanto sono state criticate una serie di misure prese nel nostro paese, però andando a guardare le durate, le intensità, noi in Italia abbiamo fatto il lockdown più precoce, più rigoroso e più lungo di quello praticamente di tutti gli altri paesi europei. Quindi il vantaggio che abbiamo acquisito in termini di abbattimento della curva è nettamente superiore rispetto ad altri sappiamo bene che hanno fatto chiusure parziali, hanno riaperto in Francia, hanno riaperto le scuole, addirittura non ricordo bene se non le hanno chiuse nemmeno. Anche le regole sulle misure di protezione erano molto più blande in Francia o in Gran Bretagna rispetto a quanto non fossero da noi, cioè l'obbligo delle mascherine e via dicendo, no? Assolutamente sì, quindi diciamo sul fatto che noi ci siamo messi in vantaggio rispetto ad altri paesi europei, questo è un dato di fatto, perché più di 60 giorni di lockdown totale e un mese dal 4 maggio fino al 3 giugno di graduali riaperture hanno sicuramente, diciamo, dato all'Italia un vantaggio importante nel flettere la curva. Un pizzico di questo vantaggio l'abbiamo perso durante un'estate non eccessivamente, diciamo, governata da comportamenti virtuosi. Adesso la scuola è tutta una verifica che vedremo nelle prossime settimane, perché prima dei primi di ottobre, forse anche dopo la prima settimana, visto che in alcune regioni la scuola non è nemmeno riaperta, si farà fatica a vedere un po' quello che è il reale impatto delle riaperture delle scuole. Grazie Nino Cartabellotta, presidente di GIMBE, il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze. Torni presto per aiutarci a fare chiarezza. Grazie a Giulia Zonca, inviata della stampa. Ciao Giulia, alla prossima. Grazie per avermi accompagnato stamattina. Prima di chiudere vi voglio far sentire le voci dalle aggressioni che sono avvenute nelle scorse ore a delle coppie gay. Una coppia omosessuale di Padova ha raccontato così l'aggressione che ha ricevuto. Dopo che ci siamo scambiati un bacio, siamo stati aggrediti da 4 ragazzi e 2 ragazze. Principalmente siamo stati aggrediti prima io e un altro nostro amico che ha cercato di difenderci e ci hanno lanciato a terra, tirato pugni in faccia e al nostro amico hanno spaccato un bicchiere in testa, lui gli hanno pestato la caviglia. Sì, mi hanno pestato la caviglia all'urlo di fraccio di merda. E infine mi prendo altri 20 secondi, Peter Bescapè, per sentire il racconto invece che ha a che fare con un ragazzo aggredito a Napoli, un ragazzo omosessuale. Anche qua il responsabile dei Gayline, Marrazzo, sentiamolo. I ragazzi aggrediti a Napoli sono al momento sotto shock. Dei due soltanto uno ha deciso di denunciare. Una persona li ha prima minacciati alla presenza anche di suo figlio e poi successivamente è andato a ricercarli con un gruppo di 10 persone facendo un vero e proprio agguato al grido contro i gay. Così dunque quello che succede a Napoli, a Padova. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. Noi ci sentiamo con la rassegna stampa in rigoroso silenzio elettorale dopo il GR.